Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla 380esima puntata della trasmissione Restiamo Animali, un programma radiofonico che esamina la questione animale nelle sue diverse sfaccettature. Infatti, in questa puntata avremo modo di ascoltare chi fa conoscere la cruda e terrificante sofferenza animale attraverso le investigazioni e chi ci fa riflettere sul nostro rapporto con gli altri animali attraverso l'arte. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Chi ha visto in TV la sesta puntata della trasmissione Animali come noi di Giulia Innocenzi avrà forse visto, se ce l'ha fatta, le crude immagini rubate all'interno di un macello di Frosinone. Bufalini lanciati per aria, maltrattati con il pungolo elettrico e decapitati vivi. Operai che trascinano i bufalini per la coda o per le orecchie alla linea di macellazione e che successivamente gli sparano con la pistola cattiva per stordirli. I minuti che intercorrono fra lo sparo e la jugulazione dell'animale praticamente azzerano l'effetto dello stordimento. Operai che legano le zampe degli animali insieme e li sgozzano in gruppo. E ancora, animali non ancora morti per dissanguamento che vengono decapitati vivi. Le telecamere registrano anche la presenza del veterinario che per regola deve essere sempre presente durante la macellazione. Le immagini rubate in quel mattatoio sono merito di un gruppo di investigatori che si chiama Free John Doe e che per realizzare quel servizio di pochi minuti ha lavorato, pensate, per 5 mesi. Free John Doe è un team di anonimi esperti delle indagini che con le sue video investigazioni getta un fascio di luce negli allevamenti e nei macelli, mostrando ciò che avviene realmente nei luoghi della prigionia e della morte di centinaia di migliaia di animali. Abbiamo raggiunto uno degli investigatori, nome in codice ST John Doe, che ci ha concesso una intervista esclusiva. Termine che abbiamo usato comunemente negli Stati Uniti per definire le persone che vogliono mantenere la loro identità sconosciuta e quindi che vogliono preservarla e in alcuni casi in realtà anche l'identità che non si sa di un individuo. John Doe riguarda noi investigatori, persone che operiamo sul campo, ma sono anche gli animali che non hanno la loro identità e di questa vengono privati all'interno degli allevamenti e poi alla fine nei macelli. Free John Doe quindi di fatto è un po' un invito a liberare sia gli animali che sono appunto primi di identità, ma in realtà anche un po' a liberare noi stessi dalle gabbie anche un po' mentali che abbiamo quando cerchiamo di operare, di dare il più possibile un aiuto agli animali. Quando abbiamo formato questo gruppo eravamo ben consapevoli che ci fossero delle alternative in Italia. Questo gruppo può essere considerato come un'integrazione al lavoro già importante che viene svolto dalle altre associazioni. È formato da persone che in realtà sono attive da anni in questo campo, in questo ambito. Vogliamo essere sotto certi aspetti un po' più indipendenti, perché in realtà molti di noi comunque collaborano anche con altre associazioni che operano in quest'ambito. È un'esigenza nostra di volerci esprimere magari in una maniera un po' più specifica, perché queste associazioni fanno un lavoro anche un po' più ampio. Free John Doe è specifico, con questo progetto abbiamo voluto cercare di concentrarci specificatamente su una cosa che era quella di raccontare e di denunciare quello che accade, in questo caso focalizzandoci sugli allevamenti e sui macelli, di denunciarlo, in alcuni casi attraverso i media e poi anche concedendo materiale alle forze dell'ordine qualora ci fossero dei reati, anche se per noi questo non è fondamentale. Abbiamo dei contatti con alcuni giornalisti, però chiaramente scegliamo di preservare comunque la nostra identità, quindi i contatti non sono proprio diretti. E la televisione è uno strumento molto complesso e di conseguenza noi cerchiamo il più possibile di mandare il nostro messaggio, che è univoco. E il nostro messaggio è che principalmente a noi quello che interessa è la liberazione animale, quindi noi facciamo questo prima di tutto per denunciare quello che accade all'interno dei luoghi che investighiamo, come nel caso del macello in provincia di Frosinone. Però in quel caso il nostro obiettivo principale era raccontare e denunciare a prescindere quello che accade all'interno di un macello senza filtri. Poi, se all'interno di questo macello avvengono delle illegalità, allora se c'è una strada per poter perseguire le persone che commettono queste illegalità, ben venga. Ma chiaramente quello per noi è un valore, definiamolo aggiunto. Ecco. Ormai da diversi anni che vengono realizzate delle inchieste, delle investigazioni, e rispetto all'inizio, quando la priorità era, faccio un esempio, descrivere la condizione generica dei suini all'interno dell'allevamento, ormai tutto questo materiale è stato pubblicato ed è a disposizione del pubblico, quindi chiaramente sia per un'effettività di lavoro, per un discorso di interesse di media, ma anche per un discorso di impatto che può cambiare la condizione degli animali, il lavoro sta andando sempre più verso questioni più specifiche, quindi ad esempio la nostra ultima inchiesta con telecamere nascoste all'interno di un'azienda di macellazione si è focalizzata su come in maniera brutale venivano uccisi vitelli da latte e bufalini, che sono gli ultimi degli ultimi, ovvero quegli animali che vengono considerati degli scarti perché non sono animali di valore per l'industria della carne. Ecco. Quindi da questo punto di vista, ecco, quello che facciamo è valorizzare il più possibile un singolo elemento e farlo diventare l'elemento portante dell'inchiesta su cui poi possiamo costruire tutto, ecco. Dal punto di vista pubblico c'è un gruppo di supporto, che è un gruppo che non è collegato al team investigativo, quindi non opera sul campo, non ha responsabilità legali in tal senso. Il gruppo di supporto semplicemente riceve tutto quello che il team investigativo compie e lo riporta poi pubblicamente attraverso i canali che ha, quindi Facebook, Instagram e poi anche mediaticamente. Nel caso di Scanzi il contatto si è sviluppato grazie al gruppo di supporto, che comunque è formato da altrettanti attivisti con una ottima esperienza, che sono riusciti a contattarlo e grazie al materiale che noi abbiamo consegnato sono riusciti a creare una struttura che permettesse la realizzazione del video che avete visto. Il gruppo di supporto sarà un vero e proprio gruppo di attivismo, quindi faranno anche iniziative, saranno presenti anche ad eventi, sarà possibile conoscere il lavoro che faremo noi come team investigativo anche attraverso degli stand informativi. Siamo delle persone normalissime che magari hanno la possibilità di essere più libere di muoversi, spostarsi, perché comunque noi viaggiamo molto, ci spostiamo in differenti zone, poi ovviamente andiamo a rotazione, magari ci sono delle persone fisse come me, ma poi ci sono altre che ovviamente cercano di far coincidere gli impegni personali con quelli del gruppo nel momento in cui c'è ad operare sul campo per un'investigazione. Però diciamo che in generale si tratta di persone molto dedicate che fanno anche altro nella vita, ma sicuramente questo è lo scopo principale, e non abbiamo una famiglia con dei figli, ecco. Difficilmente troverai un investigatore che ha un attaccamento del genere. a livello individuale reagisce in base chiaramente al carattere che ha in qualsiasi situazione operiamo, quindi sotto copertura infiltrandoci all'interno di un posto oppure in un'ingresso notturna oppure piazzando delle telecamere nascoste, noi chiaramente subiamo tutto un certo tipo di violenza. Quindi la supervisione di una persona, di uno psicologo, è chiaramente consigliata a tutti. Io sono il primo a consigliarla anche ad altri che fanno questo lavoro. Attraverso gli anni ormai ho cercato di lasciarmi molte cose dentro al posto dove chiudo la porta quando me ne vado. Molte persone decidono comunque di sfogarsi in tante maniere, tantissimi di noi fanno volontariato nei rifugi, giustamente perché sentono il bisogno, nel momento in cui subiscono tutta quella violenza, poi di esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti di coloro che ce l'hanno fatta. Però la violenza indiretta che noi subiamo, la subiamo sul momento, ma poi la subiamo anche dopo, quando dobbiamo maneggiare tutto il materiale che raccogliamo, perché anche quella non è cosa da poco. Continuo a guardarmi attorno, lo faccio con l'occhio della persona che sa che quando fa questo tipo di lavoro va a contatto con tutta una serie di persone che rappresentano in realtà il mondo che ci circonda. Questo mi ha, non lo nascondo, aiutato anche nella vita personale, perché mi ha permesso di imparare ad ascoltare meglio le persone che non sono vegan, che non parlano di liberazione animale, che non sono attivisti. Casa dei miei nonni, vedevo tutti i giorni un uccellino dentro una gabbietta, era una cosa che non tolleravo, avevo circa 8-9 anni e alla fine ci giravo intorno e un giorno l'uccellino magicamente è volato via. This beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason. And the card that you cut with a smile, it is murder. And the turkey you festively slice, it is murder. Do you know how animals die? Kitchener Road. It's not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. Dalla dimensione reale e cruda delle investigazioni passiamo alla poesia di Roger Olmos, l'artista illustratore spagnolo che affascina grandi e piccini con i suoi bellissimi e coloratissimi libri. Dopo il successo di Senza parole, torna in libreria con un altro lavoro a tema animalista. Il titolo è Amigos e il servizio, manco a dirlo, è della nostra super rabdomante della notizia, Roberta Marino. Olè! Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa. Qualche volta però le parole sono superflue. È il caso di Sin Palabras, Senza parole, il primo libro con il quale l'illustratore spagnolo Roger Olmos ha affrontato con le sue immagini toccanti e simboliche la questione dello sfruttamento animale. A 3 anni di distanza Roger torna sullo stesso tema con un altro libro illustrato, sempre di Logos Edizioni, per i bambini affinché, come scrive lui stesso, lo leggano ai genitori. Amigos. Una storia ancora una volta raccontata solo per immagini di quotidianità, quella di una mamma che torna a casa con un regalo per la figlia, proprio un libro che parla di amicizia e di amigos, un maiale e altri animali, nuovi compagni con cui giocare. Ed è importante, spiega l'illustratore, ricordare che è la mamma a scegliere proprio questo libro. A Roger Olmos, che abbiamo raggiunto in occasione della presentazione alla fiera Tempo di Libri a Ro Milano, abbiamo chiesto qual è il legame di Amigos con Sin Palabras. Fatto senza parole, in un senso di volere prendere tutta questa realtà che indietro la industria che fanno l'esportazione con gli animali alle bambini. E alle bambini non se li posso mostrare direttamente un documentale vero o tutte queste foto che fanno la gente sulla strada, no? Che fanno le proteste. Allora ho pensato di fare un libro dove esplicare tutte queste cose con un'immagine più poetica, si può dire, ma non meno duro, ma che alle occhi di un bambino, guardando le immagini senza parole, posso capire che cosa sta passando, cercando che l'emozione, cercando che il significato viene dall'interiore, non da un testo che te lo esplica. Il bambino che vede l'immagine fa una connessione e riesce a vedere che cosa è indietro tutto questo. Con Senza Parole abbiamo fatto una cosa più generale, volevo spiegare un po' il mondo del spettacolo, del circo, del zoo, del cibo, dall'esperimentazione. Ma con Amigos è stato un po' più diverso, ha iniziato da vedere qualche video che si vede su YouTube, dei bambini che sono piangendo davanti alla cucina con la mamma, che vedono il pollo dentro del forno e iniziano a piangere, no, perché, perché? Claro, io ho iniziato a pensare, i genitori normalmente quando le comprano le libri o le fanno vedere le cartoline sulla TV e dopo il papà che li compra la Peppa Pig li fa mangiare il prosciutto e non gli dice guarda ti sta mangiando Peppa Pig, per un lato te lo faccio amare ma per l'altro te lo mato sì. E dopo tu te lo mangi. C'è questa doppia realtà in Amigos, c'è la realtà e c'è quello che vede la bambina nella storia. E il finale, non lo diciamo, no. Però ti riporta alla realtà. E mostrarlo di una maniera, con un'immagine, che anche i genitori si rendono conto. Hamburger è carne di un corpo morto di un animale, che normalmente il bambino lo vede e la prima intenzione è toccarlo, è cuidarlo, è amarlo, è oh guarda questa mucca che bella con la sua figlia. Non vede un hamburger. Il bambino, c'è un'industria dietro tutto questo, la pubblicità, ti fa una musica molto contenta, ti fa le bambini felice, guarda che bello mangiare l'hamburger, ma non ti parla che questo hamburger è la mucca che ha visto, che tanto le piace. Allora io voglio mostrare questo in una maniera politicamente quasi corretta alle bambini, no? Quasi corretta. Quasi corretta, perché questo finale di questo libro non è politicamente corretto. In Amigos dici che è un libro che i bambini devono leggere ai genitori. I messaggi dei tuoi libri arrivano più ai bambini o ai genitori? I bambini lo sanno che è indietro del bacon, lo sanno che è indietro del zoo, ma sono i genitori che non lo sanno. Non è per questo che sono genitori, sono i figli che devono fare vedere alle sue genitori questo libro. Io se ti vuole che ti faccio un libro di un zoo, ti faccio un zoo con animali tristi, ti faccio con le cadene, con la gabbia e che vogliono uscire di là, non ti faccio un zoo di animali felici. Allora sì, si deve mostrare qualche forma di esploitazione animale sempre in un senso cattivo, non positivo. Io posso mostrare questo perché io sono illustratore, io faccio dei libri, le case editrici mi fanno pubblicazioni, questi libri arrivano da tante parti. Ma veramente la gente che a me mi dà ispirazione per continuare con questo modo di vita sono tutti questi che sono sui santuari, tutti questi che fanno le proteste sulla strada, tutti questi che vanno da lunedì a domenica, che si levantano alle 5 della mattina per guidare gli animali che sono al santuario, si dice. Veramente queste sono le persone che mi aiutano a continuare e a vedere che un'altra maniera di fare è possibile. 8 o 9 anni che sono vegano. E prima di questo era mangiava da tutto e io sempre mi hanno piaciuto gli animali, ma non faceva niente la connessione perché non so, tenevo una venda su, davanti agli occhi. La mia donna mi ha mostrato un video, un documentale che si chiama Erlings, sì. E dopo vedere non è riuscito a finirlo e è iniziato a piangere. Ho iniziato essendo vegetariano, mangiava uovo e latte, ma questo dopo un mese basta. Sì, sì, che questi animali che salvano per non mangiare un hamburger dipende da una moda, a me mi fa paura. Perché stai mangiando vegano? Non so. Ogni volta che non mangia carne si salvano, non so se sono 900 animali, una cosa così. E E questo è il messaggio che dobbiamo rimandare a questa gente, no? E Amigos è un libro di speranza o no? Io penso che sì, è un libro per aprire le occhi agli adulti. Agli adulti. Roger Olmos, quindi restiamo animali? Sempre abbiamo stato di animali, allora dobbiamo restare per forza. Amigos di Roger Olmos, Logos Edizioni, 68 pagine, 17 euro. Roberta Marino, corrispondente da Milano, per Restiamo Animali. Puntate abbiamo sostenuto la campagna di solidarietà Assolti per giusta causa a favore dei 5 attivisti che nel 2013 occuparono per qualche ora lo stabulario dei laboratori farmacologici dell'Università di Milano, dove vengono tenuti prigionieri gli animali sui cui corpi vengono compiuti i cosiddetti esperimenti scientifici. Attivisti che dovranno subire un processo per quell'azione. Torniamo oggi di nuovo sul tema della vivisezione. Il sito internet del Ministero della Salute ha diffuso i dati statistici sulla sperimentazione animale relativa all'anno 2015 che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017. Il numero degli animali utilizzati o seviziati, a seconda dei punti di vista, a scopo scientifico o pseudoscientifico, sempre a seconda dei punti di vista, è in leggero calo, quasi 600.000 animali. Ma aumenta l'uso dei cani. In crescita la vivisezione nell'ambito regolatorio, cioè per quelle attività scientifiche obbligatorie e disciplinate da altra normativa, come ad esempio per la verifica della tossicità e salubrità di vaccini e dei farmaci, che ha fatto registrare un aumento del 14,5%. Per la LAV è inaccettabile inoltre che quasi la metà delle procedure appartenga alle categorie di dolore moderato o grave, con un tragico aumento di quelle classificate con il più alto grado di dolore, dove per grave si intendono sperimentazioni che comportano dolore e angoscia prolungati che possono comportare il non ricorso all'anestesia, come lesioni spinali, stimolazioni elettriche, nuoto forzato e perfusioni di organi con conseguenze come paralisi, tremori, incontinenza, ulcere, convulsioni e collasso. Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e quindi si torna nuovamente a scegliere a chi donare il 5 per 1000. Le associazioni da sostenere e meritevoli di essere sostenute sono tantissime e quindi non pensiamo certo di poter fornire una graduatoria di più o meno meritevoli. Vogliamo però ricordarvi che è possibile finanziare associazioni impegnate quotidianamente nella lotta animalista e antispecista e segnalarvi in particolare, nel nostro piccolo, quelle realtà con le quali siamo stati e siamo a più stretto contatto e che hanno i requisiti per ottenere il 5 per 1000. Il nostro quindi è un elenco puramente indicativo. Vi ricordiamo dunque le associazioni di livello nazionale come la LIPU, la Lega Protezione Uccelli, la LAV, Lega Antivivisezione, la LAC, Lega per l'abolizione della caccia, Essere Animali, specializzata nelle investigazioni in luoghi di detenzione e allevamento di animali. E poi tutti i santuari che fanno parte della rete dei santuari di animali liberi in Italia. Sono 7 strutture e si possono trovare con i relativi codici fiscali sul sito www.animaliliberi.org. Ancora vi segnaliamo il Parco dell'Abatino di Rieti, l'associazione Save the Dog Romania, l'associazione Oltre la Specie, l'associazione Italian Horse Protection a Montaione, in Toscana, impegnata in un lavoro molto particolare di ricovero e recupero di asini e cavalli, e poi sempre in Toscana il rifugio Agripunk. A Trieste invece Liberi di Volare, un rifugio veramente molto molto speciale che si prende cura di rondini, rondoni e balestrucci. E poi ancora, per motivi prevalentemente affettivi, l'associazione Aida Amicetti di Brindisi con l'eroica Antonella Brunetti che la porta avanti da tanto tempo. C'è poi un capitolo particolare da dedicare alla vivisezione o sperimentazione animale, come i padroni della scienza preferiscono dire. Una sezione particolare perché alle volte, pensando di fare del bene, si finisce per finanziare appunto realtà che finanziano la ricerca sugli animali, e chi vuole contrastare, combattere questa pratica è bene che sia informato. Vi proponiamo quindi una carrellata delle associazioni che non finanziano la ricerca sugli animali, a partire dal sito novivisezione.org, che suddivide le associazioni potenzialmente destinatarie del 5 per 1000 in 4 categorie. Quelle che finanziano la vivisezione sono associazioni molto note, come l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Teleton, 30 ore per la vita e così via. C'è poi una sezione riservata a chi finanzia ricerche senza animali, senza tuttavia avere una posizione pubblica antivivisezionista, ed è il caso della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. C'è poi chi deliberatamente finanzia ricerche senza animali e si oppone concretamente alla vivisezione, e si tratta, fra le destinatarie possibili del 5 per 1000, di iCare Italia. Infine, le associazioni che aiutano i malati, ma non finanziano ricerche. Si tratta dell'Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, Lega Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Nazionale Italiana Lotta all'AIDS, Associazione Nazionale Prevenzione Oncologica, e poi la LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS. Non vi abbiamo ovviamente fornito le indicazioni dei codici fiscali, perché sarebbe uno scioglilingua inascoltabile, ma potrete trovare le indicazioni appena dette sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Bella notizia. Meno male. A Torino la signora Simone Eduardo, di 37 anni, infermiera all'ospedale Regina Margherita, si aggira per le strade della città, pensate, con un maiale al guinzaglio. Elvis, il nome del fortunato animale, è stato adottato da un allevamento di Rovigo, dove sarebbe stato sicuramente ucciso e poi smembrato per essere messo in vendita nei supermercati, destino che è certamente toccato ai suoi fratelli. Ma Elvis ce l'ha fatta e oggi vive con Simona, suo marito, i tre figli e un simil cane bassotto, Uma, con la quale va molto d'accordo in un condominio dei quartieri Mirafiori. Elvis è già diventato la simpatica mascotte del quartiere. Sulla sua pagina Facebook, Elvis the Pig, quasi 500 persone seguono quotidianamente i suoi spostamenti in montagna o al Parco del Valentino. Altri lo fotografano durante le sue passeggiate, che sono 3 al giorno, con i proprietari oppure in compagnia del pig sitter Edoardo. Siamo in chiusura, le voci e le operazioni di backstage di questa puntata sono merito di ST John Doe, Roger Olmos, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Valentina Reggioli, il maiale Elvis, il cioccolataio Giuseppe Coco e la peracottaia Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.